Capitolo 13. Alsted, Turingia, 13 luglio 1524. Apri la Bibbia, amico mio. La voce mi coglie all'improvviso dal tavolo al quale deve aver lavorato tutta la notte. Appena sveglio, la bocca impastata, mi volto in un mugugno. Come? Gli occhi gonfi di chi ha scritto una luce troppo scarsa. Indica il libro sul tavolo. La prima lettera ai Corinzi, 7, 11, 13. Leggi, ti prego. No, Magister, dovete dormire, almeno un poco, o non avrete nemmeno la forza di parlare. Riponete la penna e sdraiatevi sulla branda. Sorride. Ho ancora tempo. Leggimi quel passo, 7, 11, 13. Scuoto la testa mentre apro la Bibbia e mi metto a cercare. La sua resistenza al sonno non smette ancora di impressionarmi. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello. Ed è impudico o avaro o idolatra, o maldicente o ubriacone o ladro. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Togliete il malvagio di mezzo a voi. Mentre leggo, annuisce in silenzio. Sembra riflettere sulle parole, ripassarle a memoria. All'improvviso alza gli occhi, miracolosamente ancora svegli. Tu cosa credi che intenda l'apostolo? Io, Magister? Già, cosa pensi che significhi? Rileggo rapidamente le parole di San Paolo e la risposta mi esce dal cuore. Che abbiamo fatto bene a incendiare il tempio dell'idolatria, che i francescani di Neudorf si dicono fratelli, ma vivono nell'avarizia e spingono il popolo ad adorare le immagini e le statue. Voi lo avete fatto per zelo, ma non credi ci sia qualcuno che ha ricevuto da Dio la spada proprio a questo scopo? Chi è al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male? Paolo afferma che l'autorità è preposta a questo scopo. Ma se non era per noi, nessuno avrebbe castigato quella banda di idolatri usurai. Si illumina. Proprio così, lo zelo degli eletti ha dovuto strappare la spada ai potenti per fare quello che essi non facevano, difendere il popolo e la fede cristiana. E questo non ci insegna forse che quando i governanti permettono che l'impietà si diffonda, allora tradiscono il loro compito e diventano complici della malvagità? Dunque, come i malvagi, secondo le parole dell'Apostolo, vanno tolti di mezzo. L'enormità di quelle parole mi colpisce come un pugno, mentre lui comincia a leggere dal suo manoscritto. Io affermo, con Cristo e con Paolo, e in conformità all'insegnamento di tutta la legge divina, che si devono uccidere i governanti empi, particolarmente i preti e i monaci, che rampognano di eresia il Santo Evangelo e nondimeno pretendono di essere i migliori cristiani. Non è possibile. Deglutisco. Magister, questo è questo che predichiedete oggi al cospetto dei duchi di Sassonia? Un ghigno, un lampo negli occhi, adesso più svegli che mai. No, amico mio, non solo. Se non sbaglio ci saranno anche il cancelliere di corte Bruck, il consigliere von Grefordhoff, il nostro Zeiss, il borgomastro e tutto il consiglio cittadino di Hallstead. Rimango impietrito mentre lui si alza, stirandosi le braccia. Grazie per l'aiuto a fugare ogni dubbio. Adesso credo che accetterò il tuo consiglio e mi sdraierò un poco. Ti prego di chiamarmi al rintocco della campana.